Questa settimana l'intervista è dedicata a un artista che è uscito pochissime settimane fa, pochissimi giorni fa quasi potremmo dire, con un singolo che anticipa l'uscita dell'album che avverrà però ad autunno, nell'autunno del 2021, quindi fra qualche stagione. Questo artista si chiama Emanuele Fusaroli, grazie Emanuele di essere qui con noi. Ciao, ciao, ciao a tutti. Benvenuto su Radio Città Fujiko. Faremo qualche chiacchiera su appunto questo tuo singolo e anche sul fatto che però questo progetto è uscito con un altro nome, cioè il singolo è uscito a nome Mondo Inferno. Intanto io ti chiederei come mai hai scelto questo nome. Mondo Inferno è la traduzione del titolo che aveva l'album che ho pubblicato nel 2008 con Tempesta, che si chiamava, era un progetto che avevo, un duo che avevo con un amico, si chiamava Don Vite Veleno. L'album si chiamava Hell Mundo, quindi ho deciso di usare il titolo di quell'album come nome di questo nuovo insieme di canzoni. Ma questo progetto Mondo Inferno quindi non è il tuo primo progetto, da quanto tempo suoni? Perché noi ti conosciamo anche come produttore musicale, ma invece la parte artistica quando è iniziata? Ma io sono da quando ero bambino, io sono diventato un produttore dopo essere stato musicista. Ho aperto il mio primo studio perché non trovavo altri studi dove riuscivo a tirar fuori esattamente quello che volevo dalle mie canzoni. E poi come a livello di produttore faccio molte robe, anche di arrangiamenti, anche delle cose come autore, insomma non ho mai smesso di suonare, però la mia dimensione è sempre stata molto di più lo studio, non tanto la dimensione live quanto il lavoro in studio, il lavoro di composizione proprio. Ok, e quali altri progetti ci sono stati prima di Mondo Inferno? Prima di Mondo Inferno c'è stato l'album di Don Vito Veleno nel 2008, poi dopo insomma con tutti gli artisti con cui ho lavorato ci ho sempre messo lo zampino, non ho mai smesso di cantare e suonare. Perfetto, tu hai scelto una canzone per aprire questa intervista, ti va di dirci qual è il titolo e come mai hai scelto questa canzone? La canzone si chiama Stay High ed è di Brittany Howard. Brittany Howard viene da una band che si chiamavano Alabama Shakes e credo che sia una canzone molto intensa e molto molto, che dire, una bella canzone, come riescono poco, una canzone ispirata. Perfetto, invece a proposito di canzoni, parlavamo del tuo singolo. Il singolo è uscito il 18 gennaio e si chiama Pelle d'oca e cuore d'elefante, anche un titolo molto particolare. E, cosa racconta questo singolo, che tra l'altro è il primo estratto per presentare l'album? Qual è la storia? La storia è la storia di due persone, di due amanti, e dell'inizio di un rapporto. Di quando appunto ti senti il cuore grande come quello di un elefante e hai sempre la pelle d'oca. E anche un po' le farfalle nello stomaco, mi verrebbe da dire, ogni tanto. Qualcun altro dice sempre a tema animale. Perfetto. E per scrivere questo pezzo a cosa ti sei ispirato? C'è stato qualcosa che ti ha dato il là, diciamo, per scrivere questa canzone? È sicuramente una canzone che ha tanti anni, una canzone che ho scritto nel 2009, diciamo. È sicuramente nata dal rapporto con mia moglie e dagli inverni che ci siamo fatti sotto il letto a fare il fumatore doppio. Ok, infatti diciamo nel testo c'è anche l'ultima frase, a me ha colpito molto: questa ninna nanna avrà il sapore più particolare che fino ad ora no, tu non avresti potuto immaginare. E sembra sì un rapporto molto intenso, ma anche in un qualche modo con qualche connotazione un po' negativa, no? Un po' pesante. Ci ho letto male io o... No, certamente diciamo che in tutta quella meraviglia quello che ci faceva dire wow forse non era solo l'amore, ma era anche qualcosa che ci portava a sentire che ci amavamo ancora di più, sicuramente. Hai letto bene. Ci ho letto bene. E tua moglie come l'ha presa questa canzone? le piace molto, le è sempre piaciuta. Perfetto, ora adesso ascoltiamo questa canzone e poi torniamo per parlare un po' del tuo progetto. Tesoruccio, tesoruccio, non avere fretta di spogliarti di quei trucchi che ti han reso attenta, di scoprirti nei pensieri, negli umori particolari. Noi non siamo mica normali, siamo degli animali, abbiamo la pelle d'oca e il cuore da elefanti. Stiamo diventando grandi. Questo amore è sordo, muto e tu gli parli troppo. Lui non ti ascolta e tu gli hai sempre dato tutto. Questo amore è sordo, muto e sarà un lungo inverno sopra il letto a fare i fumatori doppio. Ma ti vedo gli occhi attenti quando ti addormenti. Non smetti di parlare, stringi i denti. Questa ninna nanna avrà il sapore più particolare che fino ad ora no, tu non avresti mai potuto immaginare. No, tu non avresti mai potuto immaginare. No, tu non l'avresti mai potuto immaginare. No, tu non l'avresti mai potuto immaginare. immaginare. No, tu non l'avresti mai potuto immaginare. Tu non l'avresti mai potuto immaginare. Questo amore sordo muto adesso è pure cieco, e a te non resta che guardarlo e dargli fuoco. Questo amore sordo muto è solo un brutto sogno. Al risveglio prendo a calci il nostro letto e ritroveremo attenti le vie perse nei deserti, guidando a fari spenti sui tuoi fianchi. Questa luna nanna avrà il sapore più particolare che fino ad ora no, tu non avresti mai potuto immaginare. No, tu non avresti mai potuto immaginare. No, tu non l'avresti mai potuto immaginare. No, tu non l'avresti mai potuto immaginare. No, tu non l'avresti mai potuto immaginare. Tu non l'avresti mai potuto immaginare. Canzone c'è anche un video molto particolare, anche con due protagonisti d'eccezione in particolare, ed è descritto come: attraverso un cammino che esplora la follia, una ninna nanna noir rivela sensazioni ancora sconosciute ai due amanti. Ecco, com'è stata la creazione di questo video e anche il coinvolgimento di Capovilla, insomma, che è appunto un artista molto importante? Sì, beh, io adesso mi sto occupando del nuovo disco di Pierpaolo. Lui è stato così gentile da dedicarmi questo paio di giorni, e da dedicarmi soprattutto la grande emotività che riesce a trasmettere anche attraverso le immagini, perché oltre ad essere una penna di eccezione, io lo definisco praticamente un poeta, credo che abbia anche una fisicità che descrive molto bene le emozioni che volevo riuscire a tirar fuori per questo video. Io mi sono occupato anche della regia e della sceneggiatura, perché mi piace riuscire a dare un contesto cinematografico, filmico, alle cose che scrivo. Perfetto. Quindi è nata così, un po' in casa, diciamo. E com'è stato lavorare a stretto contatto appunto con Pierpaolo? È stato bravissimo, è stato disponibilissimo, e devo dire che sono molto contento di come è venuto il video, sono veramente contento. Molto fiero di questo. Beh, intanto, allora invitiamo tutti a guardarlo, intanto, perché oltre che ascoltare la canzone, come abbiamo appena fatto. Io ti vorrei chiedere invece poi se dell'album, che abbiamo detto uscirà in autunno del 2021, giusto? Quindi immagino, si presume, verso fine anno, se c'è una storia, se ci sono tante storie o è un'unica storia che ci racconterai attraverso i brani appunto che saranno contenuti nell'album. Sì, credo che sia a riguardarlo, diciamo, a rivederlo, sono una raccolta di canzoni che ho scritto in diversi anni, non sono proprio le ultime che ho scritto, ma sono una raccolta di 10-11 brani che ho visto che avevano un filone che era molto compatto e che è decisamente autobiografico e racconta un po' questo pezzettino di vita che sono stati gli ultimi anni, ed è direi direi un po' un discorso autobiografico, sono tanti, tanti piccoli pezzi di un discorso che è un po' sempre simile. Ok, com'è stato, cioè com'è l'idea di raccontare qualcosa di molto intimo e regalarlo al pubblico? Ma per me è una forma di autoanalisi, quindi non ci vedo niente di male, anzi è un modo di, sì, un modo di capirsi anche, e le ho trovate belle, le ho fatte ascoltare a qualche amico e mi hanno convinto a fare il disco, non ci trovo niente di imbarazzante, diciamo. È per fortuna allora che esistono gli amici che ci convincono a fare queste cose. Ma e invece per quanto riguarda le ispirazioni musicali che troveremo in quest'album, chi è che maggiormente ti influenza? Ma io non ho particolari riferimenti musicali, dico la verità, anche le canzoni, più che altro mi capita di svegliarmi alla mattina con qualcosa che ho sognato e cerco di riprodurla un po' nel primo momento del risveglio. Non ci sono particolari influenze musicali, devo dire, credo che comunque siano tutte canzoni che nascono da un'ispirazione, non sono canzoni costruite per andare in classifica o per riuscire ad accattivarsi quel particolare pubblico, sono canzoni molto libere. Perfetto, ora continuiamo invece con i tuoi ascolti, con le canzoni che ci stai consigliando durante questa intervista. Che pezzo vorremmo sentire adesso? Raccontaci. Cosa mettiamo? Michael Kiwanuka, si dice bene? Facile pratica. Speriamo di sì. Okay. Ok, perché hai scelto questa canzone? Ma la trovo anche questa, una bella canzone, mi sto interessando un po' a questa scena che sta arrivando oltreoceano di New Soul, di New Blues, che ha sempre queste radici della musica nera, però è declinata in un'ambientazione più moderna. Trovo degli ottimi musicisti. Perfetto, allora ascoltiamo questo pezzo e poi torniamo da te. Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. From the roof of everybody, I need something more. And I will keep some days of trouble in the hospital. Dicevamo allora che oltre a essere un artista, inizio intervista ce l'hai detto, insomma fai anche, sei stato anche produttore, per tanto tempo hai prodotto anche degli artisti molto famosi nel panorama indie, insomma più o meno indie italiano, l'indie quando era alle origini diciamo, no? Com'è stato lavorare con questi artisti e soprattutto la cosa che ti volevo chiedere è se lavorare con loro in un qualche modo ha influenzato poi anche quello che hai prodotto e creato negli anni come artista? Credo che sia più il contrario, sai, che i dischi di questi artisti sono stati influenzati da quello che dal mio essere musicista, dal mio modo di scrivere. È stato una cosa molto naturale. Io ho cominciato a fare questo lavoro aperto al primo studio che avevo 19 anni, quindi nella vita praticamente non ho fatto altro. È più di 20 anni che faccio dischi, per me è un artigianato, è svegliarsi la mattina, avere un obiettivo durante la giornata. Quindi la vivo come una parte fondamentale della mia vita e della mia quotidianità. Perfetto. E, appunto questo lavoro però negli ultimi mesi se ne sta parlando tanto perché soprattutto all'inizio del lockdown e di questa emergenza sanitaria il mondo della musica è stato forse uno tra quelli più colpiti in un qualche modo, no? E, soprattutto della musica, live. Esatto, soprattutto della musica live, e proprio per questo far uscire un disco anche in questo periodo implica perdere una parte importante, cioè quella della presentazione del disco dal vivo, dell'incontro con l'ascoltatore, no? con chi ti ascolta dal vivo. Come ti dicevo all'inizio, però io non sono uno molto portato a stare in studio, a suonare in studio, a comporre, a suonare in studio e non tanto andare a fare i concerti. L'idea che ho ad esempio per far ascoltare chi vorrà poi ascoltare dal vivo questo disco è di fare un weekend alla settimana in cui si può venire nel mio studio e allestire praticamente un piccolo stage nella sala di presa e fare proprio i concerti in casa. Ah, quindi dei mini live praticamente. No, dei mini live, dei live bellissimi. No, mini nel senso come spazio, non intendevo niente grandi palchi, ma... No, esatto, ma a me i grandi palchi non sono mai piaciuti. A me sono sempre piaciuti concerti, diciamo, in posti un po', vuoi chiamarli ridotti, però con un bel impianto, con un bell'audio, con delle belle persone intorno che insomma, sono i concerti che ricordo che mi hanno dato più emozioni sono questi qua, non sono quelli nei Palasport. E anche perché sono più intimi in un qualche modo, no? Ci sono poche persone, certo. Ma c'è molta vicinanza, secondo me. Infatti sono d'accordo con te. Poi dopo si sente anche molto bene la possibilità di che tutti sentano lo stesso concerto, c'è una cura dei dettagli anche maggiore. Perfetto, allora noi aspettiamo queste tue informazioni riguardo questi weekend, anche perché i concerti mancano ovviamente un po' a tutti, no? Però davvero i piccoli concerti, spesso sono d'accordo con te, sono quelli che in un qualche modo riescono a connettere un po' meglio forse l'artista al proprio pubblico. Certamente, sono d'accordissimo. Quindi aspettiamo le nuove uscite dei singoli, sappiamo già le date delle prossime uscite? Guarda, credo che il prossimo sia il 24 febbraio. Ah, allora manca poco, insomma. Manca poco il prossimo, sì. Bene. Almeno uno al mese, uno di mese e mezzo. Perfetto, allora noi rimarremo un po' connessi per capire quali sono, diciamo, ci sentiamo per le prossime e allora ti ringrazio. Grazie a te, sei stata carinissima. Bene, buona giornata e buon lavoro in studio. Grazie, un abbraccio a tutti.